Buongiorno a tutti, giovedì 29 maggio 2014, ore 13:30 e sulle note di American Hustle entriamo nella prima puntata di Close Up Storie della Visione. È il vostro emozionato Edoardo Zaccagnini che vi parla dalla stazione di Radio Onda Rossa, che ringraziamo per averci concesso questo angolino settimanale in cui parleremo di cinema in modo infingardo e bastardo, come piace a noi. Ricordatevi che potete seguirci sul nostro sito www.closeup.it, dove avrete inoltre la possibilità di scaricare il podcast della puntata. Tanti ospiti oggi, tra cui alcuni nostri redattori appena rientrati dalla costa francese, quella di Cannes, appunto, specchio deformante del nostro immaginario. Dopo aver salutato il nostro Giovanni Spagnoletti, il nostro direttore esimio che ci sta ascoltando da Pesaro, dove è appena terminata la conferenza stampa della 50ª edizione del Festival Internazionale del Nuovo Cinema, passerei a salutare il primo ospite della nostra puntata. Ti vedo bello tonico, sei già qui. Ciao Giampiero, buongiorno. Ciao Edo, effettivamente siamo appena rientrati dal Festival di Cannes, dove come ogni anno siamo andati a seguire cosa aveva da proporre la più importante manifestazione cinematografica del mondo. Benissimo Giampiero, allora senti, io la prima cosa che farei inizierei subito a parlare del palmarès, dei premi di questa 67ª edizione del Festival di Cannes. Certo, e cominciamo ovviamente dalla Palma d'Oro, che è stata vinta dal turco Nuri Bilge Ceylan con la pellicola Winter Sleep, un regista molto amato al Festival di Cannes, visto che aveva già vinto due Grand Prix, con Uzak nel 2002 e con Once Upon a Time in Anatolia nel 2011. Il film che ha portato quest'anno era una pellicola molto lunga, di oltre 3 ore, ma molto intensa. Importante anche segnalare il premio dato ex aequo dalla giuria a Mammy di Xavier Dolan e Adieu Langage di Jean-Luc Godard, un premio che mette insieme il vecchio con il nuovo. Il giovanissimo cineasta canadese, a soli 25 anni, ha già all'attivo 5 ottimi film, e il grande maestro del cinema francese, che con questa pellicola dà un po' l'addio al cinema, probabilmente, un film molto bello ma anche molto criptico, che fra l'altro dimostra quali possano essere le possibilità tecniche ed espressive di uno strumento come il 3D. Un'ultima notazione per il premio alla sceneggiatura dato al russo Leviathan di Zygantsev, nome quasi impronunciabile, che noi ricordiamo per una pellicola molto bella, un capolavoro che nel 2003 aveva vinto il Leone d'Oro, Il Ritorno, e che quest'anno invece si è presentato come un'opera politica che si scaglia apertamente contro la burocrazia russa contemporanea. Ok, allora io adesso farei una cosa, caro Giampiero, andrei a sentire telefonicamente quella che è stata un po' l'inviata ufficiale di Close Up al Festival di Cannes, la nostra Giovanna Branca, che abbiamo in collegamento telefonico da Siena. Ciao Giovanna, buongiorno. Sì, ciao Edo, ciao ragazzi. Come andiamo? Io... come va? Benissimo, devo dire che sono d'accordo più o meno con tutto quello che ha detto Giampiero, in particolare su questo palmarès che è stato, diciamo, prevedibile, però anche più che meritato. Se però posso, dal mio piccolo, fare qualche appunto alla giuria, il film al Leviathan, al film russo, il premio al Leviathan al film russo è stato senz'altro un premio meritato per l'importanza politica del film, però io perlomeno ho visto film molto meglio scritti in questo concorso. E un'altra notazione, il premio alla regia, che è a Bennett Miller con il suo Foxcatcher, che avrei lasciato agli americani e alla notte degli Oscar, e avrei cercato di premiare qualche regista più coraggioso e più sperimentale, come ne abbiamo visti tanti in concorso a Cannes in questi giorni. E del film di Mike Lee invece, di Mr. Turner, che puoi dirci? Il film di Mike Lee sulla vita del pittore romantico inglese William Turner è invece un film veramente bellissimo, e sicuramente è molto meritato il premio all'attore protagonista Timothy Spall, che riesce a incarnare sulla sua persona la contraddizione che è al cuore del film, che è quella tra il sublime dell'arte e la grettezza della vita umana. Grandi esclusi invece i Dardenne. Sì, l'esclusione dei Dardenne ha lasciato l'amaro in bocca a molti, anche perché si trattava ancora una volta di un film importante da un punto di vista politico, perché tratta il tema del lavoro e dell'integrità dei rapporti umani in questi tempi travagliati, diciamo. Bisogna sempre ricordare che comunque i Dardenne hanno già vinto 2 Palme d'Oro con Rosetta e con L'Enfant, e quindi un terzo riconoscimento sarebbe stato davvero qualcosa di straordinario. Senti, invece, sì, volendo utilizzare il Festival di Cannes come un termometro, qual è la salute del cinema contemporaneo? Ma direi che il cinema contemporaneo, il cinema mondiale sta benissimo. L'unica cosa che mi sentirei di dire ancora una volta alla giuria è che desidererei più porte aperte nei confronti dei giovani e meno timore reverenziale nei confronti dei vecchi maestri. Senti Giovanna, io vorrei chiederti qual è secondo te, qual è stato il film più bello di questa 67esima edizione del Festival di Cannes? Per me, Mammy di Xavier Dolan, di cui già parlava Giampiero, che ha vinto ex aequo con Godard e che per me avrebbe meritato un premio molto più sostanzioso, perché questo giovanissimo regista canadese ha un'idea di cinema veramente straordinaria. Va bene Giovanna, senti, adesso io faccio la stessa domanda a Giampiero: qual è stato secondo lui il film più bello di Cannes? Ma tu non attaccare, rimani con noi perché ci risentiamo più tardi per parlare ancora di Cannes e di cinema, va bene? Certo, resto qui. Giampiero, il ma film guarda, più bello di Cannes. In un'annata che non ha visto grandissimi capolavori, almeno secondo me, tanti ottimi film, probabilmente è proprio Mammy la pellicola più interessante, una pellicola che ricorda le atmosfere del cinema canadese, che ben conosciamo, ma che dimostra anche quanto già a 25 anni si possano fare delle pellicole molto molto interessanti. Ok Giampiero, adesso abbiamo fatto una prima riflessione un po' più seria sul festival, adesso alleggeriamo un po' con un ospite un po' particolare. Ce lo vuoi introdurre? Sì, infatti siamo veramente onorati di poter avere qui in collegamento con noi uno storico critico cinematografico che ormai da anni si è ritirato sulle colline friulane, dove tra vigneti e oliveti scruta e analizza il cinema contemporaneo. Bruno Lizzup, ci sei? Sì, devo dire che il pomeriggio da queste parti è piuttosto fresco, il terreno si presenta in buona condizione, anche se dei rugosi contadini locali raccontavano poc'anzi di come in realtà le superfici da arare risultino alquanto gibbose e presentino numerose insidie. Sì, vabbè, Lizzup, argomenti interessantissimi, ma noi volevamo che lei ci parlasse di Cannes, del film di Cronenberg. Direi appunto biondo centrocampista talentino dalle lunghe... No. Di chi sta parlando? Ah no, scusate, ho confuso con Glenn Stromberg. No, ma voi io dicevate... dicevo David Cronenberg, regista canadese. Ah, chiedo scusa. Beh, posso dire innanzitutto che il pallone racconta di come il Canada non abbia mai toccato particolari vette da un punto di vista prettamente calcistico. Tuttavia pare impossibile negare come su un versante più squisitamente cinematografico il paese si sia invece distinto con innumerevoli fuoriclasse tra attori e registi. Direi in definitiva che se nel centrocampo continuano a soffrire, nel controcampo se la cavano piuttosto bene questi canadesi. Quindi addirittura si potrebbe abbozzare una formazione di registi e di attori che sarebbe la seguente: con Egoyan, Cameron, Jewison, LaBruce, Reitman, Robson, Vallée, Polagis, Sarah Polley, Keanu Reeves e Ryan Gosling. Allenatore, manco a dirlo, quella vecchia volpe di David Cronenberg. Sì, una vecchia volpe che non ha però centrato il bersaglio. Tu hai visto Maps to the Stars? Sì, l'ho visto e direi che in effetti questo tentativo di raccontare il lato oscuro di Hollywood, tema peraltro già abbondantemente sviscerato dal cinema, non è esente da vistose sbavature in fase di impostazione, e la manovra del regista è risultata nel complesso lenta e svogliata. Pellicola decisamente scialba questo Maps to the Stars. Quindi dal flop relativo, in quanto comunque Maps to the Stars è una pellicola da vedere, anche se non l'opera più importante di David Cronenberg, al top di casa nostra, quelle meraviglie che hanno vinto il Grand Prix, il secondo premio di Cannes. Cosa ne pensi della Rohrwacher? A Rohrwacher mi viene da dire Alice, però non Alba, o meglio, non solo Alba, un po' quello che accadeva per Baggio, no? Ancora Baggio, va Baggio, Dino però. E qui si potrebbe dire sì, Rohrwacher, Alice però. Sì, ma della regista cosa ci dice? Ma guardi, innanzitutto posso dire che nel 2011 aveva vinto già un premio di premio, comunque aveva realizzato un film importante che si intitolava Compagine Celeste, credo, se non fosse sbaglio. Corpo Celeste. Accolgo la correzione del collega Nesti, ed in effetti trattavasi di Corpo Celeste, il quale faceva intuire le doti di questa regista, che io stesso notai dicendo però gira bene. Quindi non la stupisce il premio vinto? No, non mi stupisce affatto e direi che la regista ha sfoderato metaforicamente una seconda importante prodezza, come se sempre simbolicamente avesse lasciato partire una sventola cinematografica che ha lasciato di stucco l'incolpevole Jane Campion, presidente della giuria, la quale non ha potuto nulla davanti alla metaforica elevazione della regista e alla sua potente incornata filmica, e non ha potuto far altro che consegnarle la coppa. Un gran premio, non una coppa. Comunque, come definirebbe Le Meraviglie? Beh, sempre usando una metafora a me cara, direi che può essere definito come una sgroppata ricca di inventiva, un film che sguscia via con fantasia e piglio poetico, dribblando avversari temibili come la talentuosa giapponese Kawase o il veterano inglese Mike Leigh, lasciando poi sul posto una coppia collaudata ed affidabilissima come quella dei fratelli belgi, appunto i Dardenne. Continui. Beh, una folata offensiva di grande libertà, una scorribanda di creatività piuttosto ben calibrata che speriamo porti nuova linfa a tutti gli azzurri del cinema italiano e che riempia più a lungo possibile le sale cinematografiche in ogni ordine di posti. Quindi, concludendo, Litsup? Per concludere direi sale alto l'urlo Alice e Alice. E con questo urlo che sale alto noi salutiamo e ringraziamo Bruno Litsup e torniamo un attimo dalla nostra Giovanna. Sì, direi che insomma personaggio alquanto bizzarro questo nostro amico Litsup, che però a modo suo delle cose su questi film mi sembra che le abbia anche dette. Allora, sì, torniamo a Giovanna e vorremmo sentire anche da lei un'opinione su questo film Le Meraviglie di Alice Rohrwacher. Giovanna, ci sei? Sì, sono okay, qua. Sì, effettivamente io su Alice Rohrwacher vorrei dire che ha ecceduto le mie stesse più rosee aspettative, con una storia di una famiglia liberamente ispirata alla sua e quella della sorella Alba, che però la storia familiare, se è tipica del nostro cinema, va ben oltre, in quanto porta sullo schermo una storia di formazione e si interroga sui mutamenti sociologici del nostro paese e anche diciamo paesaggistici in un periodo che sono gli anni 90, che continuano a far sentire le loro conseguenze ancora oggi. Ma soprattutto questa storia diciamo è retta da un'idea di regia veramente originale e che tocca in certi momenti delle vette di assoluta poesia, come nella sequenza finale che spero che potrete vedere tutti. Sì, ricordando che il film è già uscito in sala, volevo sentire sì, anche Giampiero su questo argomento. Ma diciamo che Le Meraviglie è stato un film molto apprezzato a Cannes da tutti tranne che dalla critica francese, che incomprensibilmente lo ha invece stroncato. È un'opera sicuramente importante che fra l'altro torna a parlare di quella provincia che era stata la forza del cinema italiano e che ultimamente è un po' meno raccontata. Allora, io adesso, prima abbiamo parlato dei film di Cannes che vi erano piaciuti di più, avete detto alcuni titoli, adesso vorrei un po' toccare quelli che sono stati invece i punti più bassi, film che proprio sconsigliate o che proprio non vi sono piaciuti. Partirei di nuovo da Giovanna. Ma Edo, io direi che a contendersi il titolo sono un po' di film. A non essere piaciuto quasi nessuno è quello di Bonelot su Yves Saint Laurent, che non è piaciuto neanche a noi ma è piaciuto solo alla critica francese. C'è poi Egoyan, che è stato stroncato spietatamente da tutti, e personalmente non ho amato neanche il film africano in concorso Timbuktu, che si perdeva un po', aveva dei buchi di sceneggiatura un po' troppo importanti perché si potesse soprassedere. Anche Giampiero velocemente. Ma io invece velocemente ricordo la pellicola che mi è piaciuta di meno, che invece è stata presentata in Instant Regar, quindi non in concorso, che è l'esordio alla regia di Ryan Gosling, un'opera che scopiazza i suoi grandi maestri ma che non va da nessuna parte. Va bene, benissimo. Allora, io passerei ai saluti finali. Ringrazierei prima di tutto Radio Onda Rossa che ci ha concesso questo spazio. Ringrazierei la persona di Federico Raboni. Salutiamo anche Giovanna. Sì, sì, adesso Giovanna naturalmente la salutiamo. Giovanna, un caro saluto e grazie per il tuo intervento. In bocca al lupo. E noi ciao, salutiamo di nuovo, appunto, abbiamo detto, Federico Raboni, Radio Onda Rossa e il suo contenitore I Visionari. E poi Giampiero, che dire? Buon cinema a tutti. Buon cinema a tutti. Salutiamo prima ovviamente la regia Gianmario Di Risio, anche te Edoardo, Bruno Lizzo, insomma un saluto collettivo a tutti quelli che hanno permesso questa trasmissione e alla prossima. Grazie, buon cinema a tutti.